Di nuovo a Rock Legends per la quarta ed ultima parte, abbiamo sempre Ida Evil Eye delle Crucified Barbara in linea. Alessia, qual è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato? Si chiama Danger Danger ed è sempre del nuovo disco delle Crucified Barbara, Till Death Do Us Part. Allora, cosa vi aspettate dal nuovo album e dal resto del vostro tour? Ida, what do you expect from the new album and the rest of the tour? We expect from the album to tour around the world, of course, and we want to try new things and play at bigger places, of course, and we want to go to the United States and to Japan and places that we've never been at, but of course we want to do more shows in Italy and France and Sweden, and what we expect is to play as much as possible and have a great time, which we always have. Okay. Thank you very much for the interview and for your availability and for your that you are very nice and for the show of yesterday that was very, very incredible and we enjoyed a lot. Oh, thank you very much. Okay. Hope you come back to Italy soon for a new live tour. We are waiting for you in Italy for your next tour. Oh, yeah, we're waiting for you too. Okay. We're excited about being in Italy and we always want to come back here. We have a special relationship with Italy, so it feels great. Okay, thank you. Alessia, puoi annunciare l'ultima canzone? Bye bye. Bye. Sì. Okay, Ida, we have enjoyed. Thank you very much and hear you soon. Bye bye. Yes. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ora traduciamo l'ultima parte dell'intervista per i nostri fan, che chiaramente nessuno all'inglese non lo capiscono in tanti. Allora, diciamo che quello che si aspettano dal nuovo CD è chiaramente riuscire a suonare nei posti più belli, più grandi, non solamente in Italia ma in tutta Europa, e non solamente in Europa ma anche in America, in Giappone, riuscire a sfondare quindi non solamente nel vecchio continente, visto che loro sono svedesi, ma riuscire ad andare anche altrove, insomma. Loro si aspettano quindi tutte queste cose, noi gliele auguriamo, speriamo di rivedere l'Italia presto. Gli abbiamo fatto i complimenti per il concerto che abbiamo visto, che è stato assolutamente entusiasmante, hanno trasmesso molta grinta e quindi abbiamo fatto i complimenti, loro ci hanno ringraziato, ci hanno detto che sperano ben presto di tornare in Italia, soprattutto per instaurare questo tipo di relazioni di amicizia e per riuscire ad avere sempre più fan e sempre più persone che le seguono. Allora, come dicevo, Alessia, potevi annunciare l'ultima canzone? Sì, l'ultima canzone è Feels Like Death. L'appuntamento per i nostri ascoltatori, come sempre, al prossimo venerdì, quando avremo qui in studio la formazione Metal Rock Padovana degli Swords, che presenterà il nuovo disco. Ciao!